Buon pomeriggio, giovedì 11 marzo del 2010, le 14 in punto, 87.900 la modulazione di frequenza, Visionari, l'appuntamento con il cinema ogni giovedì dalle 14 alle 15 sulle frequenze di Radio Onda Rossa. Per tutte le informazioni relative alla scaletta potete consultare il sito della radio www.ondarossa.info, dove troverete il link della puntata per ascoltare la puntata precedente e poi gli ospiti di questa settimana, le uscite di domani, venerdì 12 aprile, le uscite in sala, i film già in programmazione a Roma e nel Lazio, e poi link per dare un'occhiata a interviste, conferenze stampa e recensioni, oltre che la settimana sul piccolo schermo per quanto riguarda i film. Cominciamo con i nostri ospiti di quest'oggi. Collegamento con noi Antonio Martino, regista del documentario Niguri. Pronto, ben trovato intanto. Ciao, ciao a tutti, grazie. Allora, come va intanto? Beh, va bene, sono a Bologna e siamo sommersi dalla neve. Allora, io ti contattavo perché ti stavo cercando da un po' di tempo, avevo in mente un collegamento con te perché mi hanno segnalato questo tuo documentario. Allora, raccontaci un po' di cosa si tratta. Bene, allora, intanto Niguri, con l'accento sulla I, in dialetto calabrese vuol dire neri o peggio negri. Ecco, quindi, però non è usato in termine dispregiativo. Io volevo introdurre questa cosa dicendo che sono nato e cresciuto nel villaggio Sant'Anna fino ai 18 anni. Già da tempo, quasi un po' più di 12 anni penso, è presente il campo profughi, il campo d'accoglienza, di riconoscimento per i richiedenti asilo, ecco, sì. La gente che arriva oggi dall'Africa e dall'Afghanistan, dall'Iraq, quindi dal Medio Oriente, ma già prima arrivarono i kosovari dopo la guerra tra la Serbia e il Kosovo. E volevo fare un film sull'immigrazione e ho pensato bene di tornare a girare questa cosa al mio villaggio, ecco, quindi questa è, da qui è nata l'idea. Cosa succede al villaggio Sant'Anna? Il villaggio Sant'Anna, intanto, che da quando è attivo, Antonio? Come? Intanto da quando è attivo questo campo? Penso dal 98. Dal 98, sì. Sì, dal 98. È nato proprio con l'emergenza Kosovo. Il campo si trova attaccato a questo piccolo villaggio, appunto Villaggio Sant'Anna, che è in provincia di Crotone, e è riuscito a contenere anche 2.000-2.500 persone. Pensa che il numero massimo di persone che poteva ospitare è 700 persone, quindi ci sono stati punti di sovraffollamento molto pericolose, per esempio. Cosa succede? Il core del film è questo. Dal 2007, sì, quindi da 3 anni, secondo un decreto dell'allora governo Prodi, il campo viene praticamente aperto, cioè mentre prima del 2007 i richiedenti asilo, gli ospiti del campo erano costretti a stare chiusi nel campo nel tempo in cui aspettavano e quindi richiedevano il loro status di rifugiato, dal 2007 sono stati aperti i cancelli, quindi questa gente poteva uscire liberamente dal campo durante le ore diurne, quindi dalle 8 del mattino alle 8 di sera. Il villaggio quindi a ridosso del campo, quindi villaggio Sant'Anna, che conta 400 persone, viene letteralmente invaso da tutte queste persone, tra virgolette, diverse, che approdavano e approdano a Sant'Anna, come dire, nella speranza, con la speranza di avere questo documento e quindi di sperare in un futuro migliore, ecco. Quindi tutto il film è giocato sulla linea di confine, diciamo, in mezzo, la linea di confine che passa attraverso le stradine di questo piccolo villaggio, dove si gioca il match tra i bianchi, che sono gli autoctoni, e i neri, i niguri appunto, che sono gli ospiti del campo. Il film è giocato tutto su i luoghi comuni che si creano alla vista, quindi del diverso, del nero, ecco, la paura del colore della loro pelle, la paura della loro cultura, la paura di non comprenderle, di non essere compresi. Quindi quello che succede nel microcosmo di questo piccolo villaggio riflette quello che succede nel macrocosmo dell'intero paese Italia, ecco. Il lavoro come l'hai costruito? Ci sono interviste o hai seguito la quotidianità? Come l'hai strutturato? Sì, allora, il lavoro è, intanto voglio dire che è stato uno dei lavori più difficili. Io sono stato in molti paesi, tra virgolette, pericolosi nel mondo, zone calde come l'Uzbekistan, e la Serbia, sono stato in Bielorussia, in Romania, nelle fogne di Bucarest con i bambini che vivono in quei luoghi, ma non ho mai avuto tante difficoltà come nel mio villaggio natio, perché da una parte avevamo gli autoctoni calabresi, che storicamente hanno una cultura chiusa, ermetica, e che difficilmente si aprono a, come dire, a un intervistatore esterno. Dall'altra avevo i richiedenti asilo, i niguri, i quali pernottando nel campo di Sant'Anna aspettano di incontrare la commissione. La commissione è costituito da un gruppo di esperti che deciderà dopo un anno, anche a volte, deciderà se queste persone possono diventare cittadini italiani o comunque avere uno straccio di documento o meno. Quindi il film è giocato, è diciamo un ping pong di interviste tra i bianchi e i neri. La cosa curiosa è che storicamente la popolazione del villaggio Sant'Anna è costituita da persone emigranti che sono partite. Io stesso, per esempio, sono un emigrante, sono salito nel nord Italia. E pensa che nel film c'è qualcuno che parla della propria esperienza in Germania, dove loro stessi in Germania erano considerati niguri, quindi neri, perché la loro pelle, la pelle dei calabresi, faceva la differenza con la pelle dei tedeschi, che era una pelle bianca, tra virgolette, diciamo così, ariana, ecco. Quindi c'è un continuo ping pong di interviste, un continuo affrontare luoghi comuni, ma anche un continuo ribaltamento poi del punto di vista sull'immigrazione e sulle diversità. Senti, quali sono dal punto di vista appunto dei niguri i problemi principali che ti sei trovato di fronte? Quali sono le cose che ti hanno detto rispetto a questo centro che li accoglie? Sì, bene, sicuramente non vivono bene in questo campo, ma non il loro problema non è questo. Il loro problema è quello di ricevere questo riconoscimento, cioè in pratica il loro problema è tutto questo iter burocratico che li manda e li rimanda poi nel tempo, che poi dovrebbe decidere se e come dare lo status di rifugiato a queste persone. Il problema è che queste persone aspettano, come ho già detto, quasi un anno, quindi senza far nulla, e quindi a vagabondare per le stradine di Sant'Anna, e nel frattempo sono denigrate e, come dire, sono viste male dalla popolazione locale, e magari dopo 6 mesi, 7 mesi, un anno di attesa soprattutto nella maggior parte dei casi, verrà rifiutato lo status di rifugiato. Quindi queste persone, dopo aver aspettato un anno in questo campo, diventeranno ufficialmente clandestini, riceveranno un foglio di via, e questo foglio di via dirà che entro 5 giorni questa persona deve lasciare l'Italia. Puoi capire cosa vuol dire per una persona che ha affrontato l'inferno per arrivare qui in Italia a vedersi rifiutare la propria richiesta di asilo politico. Ecco, una cosa che mi ha veramente colpito è anche lo stato emotivo di queste persone, dei niguri, uno stato di profonda depressione a volte, perché questo stare a Sant'Anna, in questo piccolo villaggio quasi immacolato, immerso nella natura, quindi questo girovagare senza far nulla tutto il giorno li porta a pensare a ripensare alle proprie famiglie in Africa o in Afghanistan, in Iraq, oppure li porta a pensare alle torture che hanno subito, alle violenze che hanno subito durante il loro viaggio. Questo attendere li porta a riflettere in continuazione, e quindi spesso li porta anche all'alcolismo. Mm-hmm. Quindi a bere continuamente del vino per dimenticare. È ovvio che poi, voglio dire, questa cosa può diventare un problema serio sia per i niguri stessi, cioè i richiedenti asilo, e sia per la gente autoctona locale, perché ovviamente tende a spaventarsi, ecco. Senti, ci sono gruppi o associazioni che si occupano nello specifico di questa situazione? Danno un loro contributo alla vita, migliorare le condizioni di vita di queste persone? Beh, no, devo essere sincero, no. Esistono alcune associazioni, ma sul luogo, sul campo c'è poco, veramente poco. Le persone del villaggio Sant'Anna, gli autoctoni e i richiedenti asilo sono lasciati quasi a loro stessi. Ho capito. Non c'è un mediatore culturale, non c'è un qualcuno che si adoperi per semplicemente per tradurre quello che vorrebbero comunicare i richiedenti asilo con la popolazione autoctona. Diciamo che tra la popolazione autoctona e i richiedenti asilo si è creato un muro insormontabile, che ha bisogno ovviamente di associazionismo, ha bisogno di gente che si adopera per sciogliere questa tensione che si è creata tra la popolazione e i richiedenti asilo. Antonio, il tuo lavoro è stato presentato a Bologna e prossimamente quali direzioni prenderà? Bene, allora il mio lavoro è stato presentato in anteprima a Bologna, poi a Crotone durante le festività natalizie. A febbraio ha partecipato al Video Parma Film Festival, dove ha vinto il primo premio, e successivamente sarà proposto a fine marzo a Milano. Non ho ben le date precise perché non le ho sotto mano, però invito gli ascoltatori a visitare il mio sito, che è www.antoniomartino.net. Ti dico che ci sarà una prossima proiezione a Milano il 22 di questo mese di marzo, sì. E stasera sempre a Parma alla Casa Cantoniera alle 21 ci sarà la proiezione, quindi del documentario. Bene, allora in bocca al lupo e a risentirci alla prossima. Ok, grazie Crepi, ciao. Ciao Antonio, ciao. Antonio Martino, regista del doc Niguri. Proseguiamo. Thank you. nostra speciale co-direttrice della 20ª edizione del Festival del Cinema Africano d'Asia e America Latina a Milano dal 15 al 21 marzo. Ben trovata. Buongiorno. Tutto bene? Sì, benissimo. Allora, 20ª edizione, cosa ci proporrete? Ma come sempre i soliti concorsi di film aperti ai tre continenti, Africa, Asia, America Latina, e poi novità sezioni di quest'anno, sezioni cinematografiche si intende, Africa nel pallone, una sezione dedicata al cinema in Africa, ovviamente in occasione dei prossimi mondiali che avranno luogo in Sudafrica, che è la prima volta che il mondiale, la Coppa del Mondo avviene in un paese africano. E noi siamo molto contenti di questa iniziativa, anche se è un'iniziativa che ha fatto nascere varie polemiche, perché l'Africa la si vede sempre come un continente con tali problemi da non poter appunto affrontare magari economicamente grandi eventi come la Coppa del Mondo o altro, però noi siamo sempre dell'idea che bisogna anche promuovere l'Africa in questo senso, e quindi anche il festival, che è una promozione culturale di cinema, è un po' nella stessa linea, no? Cioè, non dobbiamo pensare che in Africa non si faccia cinema o non si facciano i mondiali di calcio. Questi film comunque parleranno chiaramente degli aspetti più emozionanti del cinema, scusami, del calcio in Africa, ma metteranno anche un po' il dito su quelle che sono le problematiche, sì, che conosciamo bene. Senti, quali sono i paesi più in fermento dal punto di vista cinematografico? Da dove provengono per la maggior parte le opere? Ma guarda, sicuramente l'Asia in questo momento è forse il continente tra i tre più produttivo, cioè anche l'Asia, diciamo, dei paesi meno sviluppati. Infatti quest'anno abbiamo un film del Bangladesh, o abbiamo anche film dalla Cambogia. Però sicuramente da un punto di vista cinematografico in questo momento sono abbastanza leader nel mondo, al di là ovviamente del mondo occidentale. Pensiamo alla grande cinematografia indiana o alla grande cinematografia cinese. Diciamo che poi dopo un po' a pari merito l'Africa e l'America Latina. L'America Latina ad esempio ha dei paesi molto produttivi come l'Argentina, e il Brasile, da paesi invece che fanno ancora abbastanza fatica a affacciarsi al cinema, come la Bolivia, l'Ecuador, e paesi, diciamo, appunto un po' più sfavoriti economicamente. Però il cinema c'è in questi paesi, e spesso è anche cinema di grande qualità, e quindi non rimarrete assolutamente delusi dalla nostra selezione, perché veramente siamo riusciti a trovare, sono 9 film lungometraggi in competizione più altri 9 documentari dai tre continenti, bellissimi. Poi ovviamente il festival non è solo questo, perché alla fine raggiungiamo una quota circa di 70 film, sì. Però diciamo i concorsi grossi sono questi due che vi ho detto, e vedrete veramente delle perle che arrivano anche da paesi appunto poco rappresentati. Senti, ci saranno anche gli autori in alcuni casi ad accompagnare i propri lavori? La nostra politica è sempre stata quella: non esiste festival se l'autore non può presentare il suo film. Sì. Devo dire che negli ultimi anni, ahimè, abbiamo dovuto un po' retrocedere rispetto a questa cosa, perché problemi economici che abbiamo, sempre maggiori, non ci permettono più ad esempio di invitare tutti i registi in concorso, sì. Però ce ne sono lo stesso ancora tanti, e il festival comunque mantiene il livello alto, soprattutto di proposta culturale di un tempo. Non posso negare, anzi lo devo dire, che stiamo viaggiando con un budget che è la metà di quello di 2 anni fa. Ah beh, insomma. Sì. Problemi grossi. Senti, per quanto riguarda le sezioni e le proposte, state procedendo, visto che si tratta comunque di un'edizione importante, la 20ª, in continuità, o ci sono anche delle novità rispetto alle proposte? Rispetto alle proposte, una grossa novità che comunque, cioè, è una cosa che e per quando te la presentiamo, perché però non, per noi costituisce una novità dopo questi 20 anni, è un festival center, ossia abbiamo affiancato al nostro festival un altro piccolo festivalino, un po' come un festival nel festival, che ha luogo in un luogo molto centrale a Milano, che è il casello ovest di Porta Venezia, e all'interno di questo casello creiamo degli spazi non solo cinematografici ma soprattutto di incontro tra i registi e il pubblico, e diamo anche spazio a tutti gli artisti che vivono a Milano e in Italia, che provengono dai tre continenti e che hanno la possibilità all'interno di questo spazio di presentare o le loro opere o i loro spettacoli. Bene Alessandra, in chiusura ci dai riferimenti internet per il programma? Sì, per trovare tutte le informazioni e programma il sito è www.festivalcinemaafricano.org. Benissimo, in bocca al lupo e a risentirci alla prossima. Grazie, ciao. A presto, ciao. Era Alessandra Speciale, co-direttrice della 20ª edizione del Festival del Cinema Africano d'Asia e America Latina a Milano dal 15 al 21 marzo. Bene, allora da un festival che affronta film, porta qui in Italia film da tre continenti, ad uno più specifico che a Firenze invece parlerà di cinema coreano. E stiamo parlando del Korea Film Fest a Firenze dal 12 al 20 marzo con Riccardo Gelli che è nel direttore. Pronto? Sì, pronto. Eccoci. Ciao. Ti so che tu, scusami. Beh sì, tranquillamente. Va bene. Allora, parlaci un po' di questo festival. Tra l'altro credo sia la prima volta che ci sentiamo. Sì, ci sentiamo la prima volta. Comunque però il festival è da 8 anni sì. Che organizziamo e sempre più con successo. Abbiamo invitato e organizzato rassegne retrospettive di vari registi coreani e di genere sulla cinematografia coreana. L'edizione di quest'anno per cosa si caratterizzerà in particolare? Ma dunque, quest'anno abbiamo organizzato una retrospettiva sul regista Ho Jin-ho, che è uno dei maestri del melodramma coreano, storie d'amore, di storie di famiglia. Praticamente molto interessante e credo anche molto vicino a noi come problematica. E poi una rassegna sul che si chiamerà K-Horror, ma è praticamente è una rassegna dedicata al cinema horror coreano, dove sarà presente il primo regista, il regista che ha inventato un genere di cinematografia che è tratto all'interno delle scuole, un horror all'interno delle scuole e delle aule. È molto interessante e credo anche Giappone, la cinematografia giapponese ha attinto molto da questo tipo di genere. Sì. E dove sarà presente anche il regista Park Hyun. E poi l'invitato d'onore Dario Argento, dove insieme faranno un dibattito sull'horror in generale. È una mia impressione o dopo un exploit negli anni scorsi i film che arrivano qui in Italia sono diminuiti sensibilmente dalla Corea? Sono diminuiti, cioè, nel senso che i distributori italiani non comprano sì. Film italiani, ma il nostro festival è sempre più ricco nella presentazione di questa cinematografia. Purtroppo stiamo lavorando affinché si possa promuovere sempre meglio questo tipo di cinematografia attraverso la distribuzione italiana. Senti, ecco, avete pensato a strategie alternative rispetto proprio a questo problema distributivo? No, dunque, cerchiamo di promuovere probabilmente i distributori italiani, forse puntano a una certa cinematografia molto più vicina a quella americana di cassetta praticamente. Però penso che la distribuzione italiana non conosca ancora a fondo questo tipo di cinematografia e penso che dovrebbe avvicinarsi di più perché è un bel genere e la gente appunto è interessata a questo tipo di cinematografia. Senti, ci sono generi in particolari che avete accolto in questa edizione del festival e poi quali nuclei tematici invece rispetto a tutte le proposte che vi sono arrivate e i film che avete visionato? Quali sono, se ci sono, temi forti? Come ho già detto, appunto il genere di quest'anno e credo anche negli anni prossimi organizzeremo sempre di più un film di genere. Prospettive o rassegne di genere. Quest'anno, come ti ho detto, appunto, sì, organizziamo sì. Il K-Horror. Sì. Comunque ci sarà la sezione Orizzonti Coreani e Independent Korea che saranno in concorso con un voto dal pubblico e dagli studenti del DAMS di Firenze. Bene. E in più ci sarà, scusami ancora, sì, sì. Per finire ci sarà l'atteso film First di Park Chan-wook, che era presente e premiato a Cannes, e anche all'interno degli orizzonti coreani ci sarà il film Mother di Bong Joon-ho, che è anche uno di questi famosi registi coreani insieme a Kim Ki-dok ed altri, che purtroppo Kim Ki-dok quest'anno non sarà presente al nostro festival. Oh, il festival si muoverà anche durante l'anno, non solo nel periodo che va dal 12 al 20, con altre iniziative? Sì, cerchiamo sempre di più di fare, tra l'altro appunto noi anche negli anni passati abbiamo sempre organizzato degli eventi collaterali o nei tempi che non c'è il festival. Tipo dibattiti, anche mostre di pittura, fotografia, tanto per tenere vivo sempre questo festival durante l'anno, e che non vogliamo solo che si fermi a Firenze, ma che si espanda nella conoscenza e nell'interesse dal pubblico italiano. Senti, in chiusura, Riccardo, possiamo anche dare il sito internet per seguire il programma? Sì, www.coreafilmfest.com. Vorrei dire l'ultima, sì, il no. 20 di marzo, l'ultimo giorno del festival, ci sarà un grosso concerto del gruppo dei Lovolix, venuto dalla Corea, che sono i maggiori esponenti del pop del Far East in Corea. Benissimo, allora in bocca al lupo. Bene, grazie. Ciao. Riccardo. Riccardo Gelli, direttore dell'ottava edizione del Corea Film Fest a Firenze dal 12 al 20 marzo. Questa è Visionario, ogni giovedì dalle 14 alle 15 sugli 87.900 in modulazione di frequenza di Radio Onda Rossa. Tutta la scaletta la potete trovare sul sito della radio www.ondarossa.info. Proseguiamo con gli ospiti. Giuliano Girelli, fondatore del progetto Documè, per l'apertura della Casa del Documentario a Torino, ben trovato. Ciao Federico, grazie. Allora, questo progetto, raccontaci un po', mi sembra piuttosto interessante. Ma guarda, noi, tu sai, sono 7 anni che lavoriamo per cercare di promuovere il cinema documentario in Italia. Sì. E insomma l'abbiamo fatto inizialmente, come oggi d'altronde, con il sostegno di tutti gli autori, quindi abbiamo arricchito sempre di più il nostro catalogo di film, e prima facendo da soli delle proiezioni a Torino e poi proponendo questo catalogo in giro per l'Italia, per cui ad oggi abbiamo circa 300 film totali e abbiamo fatto 3.000 proiezioni in tutte le regioni italiane. È chiaro che a questo punto ci sembrava giusto spostare la nostra sede in un ambiente un pochino più grande, perché noi eravamo in un piccolo ufficetto e quindi ecco, ci siamo spostati in questo luogo che abbiamo chiamato la Casa del Documentario, dove cerchiamo di dare spazio a tutta una serie di iniziative, quindi dalle proiezioni che finalmente possiamo fare tutti i giorni, ad uno spazio mediateca dove le persone possono venire in delle postazioni, consultare tutti i film a catalogo, e poi ovviamente i seminari, i laboratori che finalmente facciamo in un luogo nostro, ecco. Sì, oltre alle postazioni quindi c'è anche la presenza di una sala di proiezione per le iniziative? Sì, sì, sì, esatto. Siamo in un luogo dove abbiamo ricavato una sala proiezioni di 60 posti. Sì. Naturalmente noi continuiamo la nostra presenza al Cineteatro Baretti, che è proprio qua dietro l'angolo, è la nostra sede storica, il lunedì sera. Però in questa sala video che abbiamo attrezzato abbiamo la possibilità di fare anche altre proiezioni tutti i giorni, il pomeriggio ma anche la sera, ed è un luogo dove possiamo fare anche un po' più di sperimentazione, se vuoi, nel senso che oltre a questa presenza al Cineteatro Baretti il lunedì sera, avendo più spazio possiamo fare delle rassegne speciali dedicate ad autori, fare delle monografie piuttosto che fare dei lavori sul genere, quindi magari dei documentari un po' più difficili, tra virgolette, insomma, lo spazio ci aiuta molto. Non ho capito bene, non so se quando avete aperto questo nuovo spazio? Questo nuovo spazio è operativo da 2 settimane. Da 2 settimane. Siamo insediati più o meno a gennaio, e è tempo di preparare un po' tutto, di allestire le varie aree. Il programma ufficiale è partito la settimana scorsa con un primo ciclo, e adesso le settimane sono tutte programmate fino a giugno, e ogni settimana ha un titolo, cioè tocca una tematica particolare, e di ognuna di queste tematiche abbiamo selezionato 4 film particolarmente rilevanti dal nostro catalogo. E quindi una sorta di maratona docu, ecco. Quindi ogni settimana una rassegna è composta di 4 titoli? Ogni settimana la rassegna qui alla Casa del Documentario è composta di 4 titoli, sì, esattamente. Che avranno orari diversi di proiezione, immagino. Abbiamo una proiezione alle 18 e una proiezione alle 20, solo il martedì alle 20. E niente, anche proprio perché in questo modo riusciamo anche ad avere un pubblico diverso. Per esempio, in questo momento stanno venendo molti universitari al pomeriggio, ma anche persone anziane, per dirti, no? Questa è una cosa per noi importante, perché in genere abbiamo sempre cercato di rivolgerci a un pubblico molto molto ampio, ecco. Quindi, fresca apertura, com'è stata la risposta della gente fino a questo punto? Ma guarda, fino a questo momento la risposta è stata molto buona, anche perché siamo arrivati molto in ritardo con la comunicazione, però diciamo che questa settimana 200-300 persone sono passate sicuramente, e quindi è già un riscontro molto positivo per noi. 300 i titoli nel vostro catalogo, qual è lo stato secondo te al momento del documentario in Italia? Guarda, dire che negli ultimi anni non c'è stata una sorta di rinascita sarebbe un po', insomma, da pessimisti, ecco. Noi quando abbiamo iniziato nel 2003 la situazione ci sembrava abbastanza devastante, proprio perché a parte i festival, che erano comunque meno di oggi, c'era veramente poco o nulla, quindi tu sai che purtroppo abbiamo una situazione televisiva che è veramente drammatica. Il fatto che negli ultimi 30 anni non ci sia stata una diffusione della cultura del documentario, ma anche del cinema di qualità in televisione, ha fatto sì che ovviamente questo genere rimanesse un po' emarginato, ecco. Quindi io vedo che ci sono, dalla base c'è una grandissima azione, cioè gli autori continuano nonostante tutto a produrre film, il pubblico è sempre più interessato, le organizzazioni, le associazioni, se non alcuni piccoli cinema, comunque fanno un lavoro di promozione, di presentazione in tutta Italia. Quello che manca è appunto l'elemento più importante dal punto di vista di sostegno alla produzione e anche alla diffusione, ovviamente, che dovrebbe però arrivare dagli enti che sono preposti a questo, dalle televisioni, il ministero, i fondi, eccetera. Quella è ancora purtroppo l'anello debole, anche se poi ci sono delle iniziative importanti come quella che abbiamo qui in Piemonte del Doc Film Fund, che serve proprio a sostenere le produzioni documentarie, è un fondo nuovo, recente, insomma 2 anni e mezzo, 3 anni. E quindi, però il lavoro che fa la gente in giro per l'Italia è veramente straordinario, insieme agli autori. Sì. Senti, in chiusura diamo anche i vostri riferimenti internet per quanto riguarda Documè. Certo, allora è importante, ti ringrazio anche per avermelo chiesto, perché chiunque voglia organizzare proiezioni in Italia attraverso il nostro sito lo può fare veramente in maniera molto, molto facile, e quindi può chiederci film, riceverli e restituirceli poi. Il sito è www.docume.org, quindi docume ma senza l'accento, con org finale. E niente, poi ovviamente per chi passa da Torino noi siamo felicissimi di accoglierli qui alla Casa del Documentario. Bene, allora un abbraccio, in bocca al lupo e a risentirci presto. Grazie Federico. Ciao, a presto, ciao, ciao. Ciao. Giuliano Girelli, fondatore del progetto Documè, per l'abbiamo sentito in merito all'apertura della Casa del Documentario a Torino. Bentornato a Piero Pala, pronto? Buongiorno, buon pomeriggio. Anche a te Federico e anche a tutti gli ascoltatori e alle ascoltatrici naturalmente. Certo, Piero Pala che ci propone sempre cose un po' fuori dall'ordinario per fortuna. Grazie mille. Allora, in questo caso una retrospettiva che sarà ospitata dal Nuovo Cinema Aquila dal 17 al 20 marzo, parlacene un po'. Allora, la retrospettiva è dedicata a un cineasta svizzero che si chiama, io lo pronuncio all'inglese, che è Peter Liechti, sì. La pronuncia sarebbe troppo ardua in tedesco. La retrospettiva si chiama A Cinematic Poetics of Resistance e è una delle retrospettive, diciamo, più singolari almeno che la nostra associazione sta realizzando, ha realizzato, anche se il rapporto, diciamo, col cinema svizzero, soprattutto quello indipendente, è molto lungo. Non a caso, per esempio, ci sono molti rapporti tra Peter Liechti e Peter Mettler, che forse i tuoi radioascoltatori ricordano, che abbiamo fatto or sono penso 6-7 anni fa al Film Studio. La retrospettiva di Peter Liechti verrà, diciamo, inaugurata con un concerto all'INIT, che è a via della Stazione Tuscolana, e il concerto è del compositore principale che collabora con Peter Liechti, che è Norbert Moslag, che tra l'altro ha vinto il premio come migliore colonna sonora del cinema svizzero pochi giorni fa, e anche tutta la gran parte della filmografia di Peter Liechti, soprattutto ultimamente, ha ricevuto numerosi premi, tra cui quello del miglior documentario europeo, una sorta di Oscar europeo, no? Del cinema, sì, sì, d'autore, e nella categoria dei documentari, come diciamo nella locandina, ma anche in vari testi, si tratta di categorie inappropriate per quanto riguarda gli Liechti, perché non realizza dei veri e propri documentari, ma proprio come Peter Liechti fa una sorta di cinema lirico o cosiddetto docufilm. Sì. Diciamo che questa è una retrospettiva che può interessare sia gli appassionati di musica, sia quelli di arti visive e naturalmente chi ha a cuore così il cinema militante, in quanto tra i vari film che vengono presentati ci sono alcuni che mettono in evidenza la mobilitazione della popolazione svizzera, soprattutto la comunità montana, verso tematiche ambientali. Sì. E altro film che io suggerisco veramente di non perdere è questo The Sound of the Insect, che racconta un po' la storia, è tratto da un romanzo che fu pubblicato 15 e passa anni fa dalla casa editrice Marsilio, della scrittrice giapponese Shimada Masahiko, e è la storia di questo uomo che decide di porre fine alla sua vita allontanandosi dalla città e andando in prossimità di una foresta, e qua si porta solo un taccuino e poche altre cose, taccuino dove verranno annotati giorno per giorno i suoi sintomi dal fatto che ha deciso di non mangiare e quindi di togliersi la vita in questo modo estremo. È un film, come dicevo, che ha vinto l'European Film Award, e altrettanto interessante sarà il film sui Boys Crack, che sarebbero il duo di cui faceva parte Norbert Moslang, che vedremo all'INIT il 16, e il titolo del film rappresenta bene anche qual è un approccio così cinematografico, registico dell'autore. Si chiama Kick the Habit, che sarebbe, le parole, un calcio alle abitudini. In tutta questa programmazione poi abbiamo film sull'artista svizzero Roman Signer, che ai più è conosciuto per le sue performance con gli esplosivi, con i razzi, performance che naturalmente puntano a stabilire il rapporto tra l'uomo e l'ambiente e indaga soprattutto gli agenti atmosferici, i cambi della natura. E niente, questi sono i film. Altrettanto qua alla Locandina mi ricordo di citare il film sugli Hardcore Chamber Music. Questo è un film che sicuramente per gli appassionati di jazz core è un film molto importante, sul trio appunto di Hans Koch, Freddy Studer e Schutz. Sì. E così come uno dei film più singolari di Peter Liechti è Hans and Gluck, che è un po' una summa del suo operare. Cioè, di, come dice proprio Peter Liechti, che ogni suo film corrisponde a una certa fase della sua vita. E in quel caso decise di smettere di fumare, e per farlo si portò dietro una camera e decise di fare dei trekking, delle escursioni di centinaia di chilometri dalla città di Zurigo, dove risiede, fino al luogo di origine, che è il cantone di San Gallo, l'area di Appenzello. Senti, per quanto riguarda il programma, ci dai un sito di riferimento? Sì, naturalmente è sempre quello della nostra associazione, che è Complus Events. Il sito è www.complusevents.com. Sì. O potete naturalmente trovarlo sul sito del Nuovo Cinema Aquila, e così come già sul web, prossimamente anche su quotidiani o riviste del settore verranno così presentate varie interviste o assunti, diciamo, di questa retrospettiva. Molto bene, allora alla prossima, Piero. Grazie mille e buon proseguimento a tutti. Ciao. Piero Pala, per quanto riguarda la rassegna, la retrospettiva svizzera al Nuovo Cinema Aquila dal 17 al 20 marzo. Del Cineclub Alphaville, eccoci qui Patrizia. Buon pomeriggio Federico e a tutti voi, buon pomeriggio. Allora questa volta la rassegna si intitola Femminile Plurale, è cominciata 010, è cominciata ieri e andrà avanti fino a domenica 14. Sì, io vorrei citare la frase che ho scelto per introdurre questa rassegna, che è una frase che disse Jean Gabin ad Arletty in Alba Tragica, ed è: sei bella così, sembri la verità che esce dal pozzo, che mi sembra una frase di buon auspicio per tutte le donne, nel senso che appunto non è soltanto la bellezza, ma però anche la bellezza è una delle caratteristiche della grazia, della sensibilità e dell'eleganza femminile. Quindi mi sembrava che fosse una frase, come dire, di buon auspicio per le donne anche in questo momento, insomma, in cui ovviamente non è solo il problema delle donne, è il problema della società, ma insomma le donne come al solito un pochino sono più affannate, ecco, da sempre, diciamo, questa è la cosa. Invece la rassegna è una rassegna molto suggestiva, molto, secondo me, particolare, perché comunque vede come al solito, questa è la quinta edizione, vede come al solito confrontarsi una serie di ritratti femminili che spaziano dalla letteratura contemporanea alla poesia contemporanea. Noi lo facciamo sempre a Femminile Plurale, e anche però naturalmente alla fotografia, alla pittura. Quindi in questi giorni stiamo ospitando per esempio la personale di una pittrice molto giovane, ma sicuramente di grande talento, che sta nella nostra parete artistica, quella che noi definiamo la parete artistica del Cineclub Alphaville, e che mettiamo a disposizione appunto degli artisti ogni qualvolta se ne presenti l'occasione. Ma abbiamo anche, per dire, molte poetesse, per esempio stasera abbiamo una serie di poetesse con nuove, diciamo, proposte editoriali veramente interessanti. Ma abbiamo per esempio la danza sciamana, che è stata già proposta ieri sera e che aprirà la serata di venerdì alle 21, che è anche questa una cosa davvero molto suggestiva e molto vicina a quest'idea della donna, istinto, sacralità, maternità, ma anche femminilità, insomma, davvero molto bella e molto profumata tra l'altro. E soprattutto, detto questo, ci sono i romanzi, ci sono le poesie, ci sono le musiche, ci sono le gallerie fotografiche, ma c'è soprattutto, ovviamente, Federico, il cinema. Eh sì. E questo chiaramente fa parte del Cineclub Alphaville, e nella sua, come dire, è una condizione sine qua non nel Cineclub. Il cinema è iniziato con una sezione, appunto, che è iniziata appunto ieri con Mar Nero. Non so se l'hai visto, Federico. Mar Nero, sì, l'ho visto. Ecco, questo film di Bondi, che non è donna. Bondi. Abbiamo avuto anche ospite lui. Me lo ricordo, infatti. Per questo faccio questa domanda. No, abbiamo visto il film, l'abbiamo visto con molto piacere. Certamente lui è uomo, appunto, però il film ovviamente tratta di queste due donne. Ci è sembrato, della badante di Gemma, della signora Gemma, ci è sembrato un film molto importante, molto vicino ai tempi che corrono, e alle prospettive, insomma, di questi tempi, e commovente anche per certi versi, no? Sì. E stasera invece facciamo vedere un film che non so se è molto conosciuto, La Captive, La Prigioniera, di Chantal Akerman, che è un film molto interessante, legato anche appunto ai temi cari a Marcel Proust e ad una figura femminile che, come spesso accade nelle figure delle donne, dal passato, dal presente, dalla tragedia ad oggi, spesso sono sottomesse, capiscono di esserlo, ma non sanno come farà uscirne fuori. Però questo film riserverà una sorpresa. Quindi naturalmente. E poi invece nei giorni successivi, per esempio domani proporremo il film dello scorso anno, Cosmonauta, ma proponiamo anche un film delizioso, Donne senza trucco, che è un film del 1993 tedesco, davvero delizioso, che veniva dato all'epoca con un cortometraggio che, sinceramente, Federico, non lo so se è meglio il cortometraggio o il film, comunque veramente delizioso. Bene. Breve ma delizioso. Bene. Poi abbiamo naturalmente quell'altro bellissimo film che penso forse avrete visto, che è Ti do i miei occhi, di Sian Bollen, un film spagnolo sulla violenza coniugale, esatto, che ha vinto 7 premi Goya, che ci faceva piacere di proporre. E terminiamo alla grande con una vintage, con una pellicola vintage, Eva contro Eva di Mankiewicz, che ci faceva piacere perché insomma, guardare ogni tanto le grandi icone del cinema, da Bette Davis a Marilyn Monroe, non è poi cosa tutta sbagliata dell'universo femminile. Ecco, queste, diciamo, tendenzialmente sono le proposte. Ci saranno anche dei cortometraggi, io adesso dicevo le cose principali, però ci sarà anche la possibilità di parlare, come abbiamo fatto ieri, di confrontarsi tra cinema, teatro, letteratura, pittura, e insomma è un modo per stare un po' tutti insieme, ma anche con gli uomini naturalmente. Allora, il programma è sul sito del Cineclub, ovviamente, e quindi buon proseguimento. Io vi ringrazio, viva le donne, lo devo dire, scusate, lo dico sempre, viva le donne, e questa è l'occasione giusta, e speriamo, insomma, che ce ne siano tante, ripeto, non solo donne, a vedere questi film, a vedere queste proposte. Ti ringrazio Federico, vi ringrazio a tutti voi. Ciao, buon pomeriggio, ciao.